Il Signore mi disse: prenditi una grande tavola e scrivi sopra con caratteri ordinari A Maer Salal Kash Batz, che significa pronto bottino, pronto saccheggio. Io presi come testimoni sicuri il sacerdote Uria e Zaccaria, figlio di Iebarachia. Mi unii alla profetessa che concepì e partorì un figlio. Il Signore mi disse: chiamalo Maer Salal Kash Batz, poiché prima che il bambino sappia chiamare babbo e mamma, le ricchezze di Damasco ed il bottino di Samaria saranno portate davanti al re di Assiria. Il Signore mi parlò di nuovo così: poiché questo popolo ha disprezzato le acque di Siloe che scorrono placidamente e trema davanti a Rezin ed al figlio di Romelia, ecco che il Signore fa montare contro di voi le impetuose ed abbondanti acque del fiume, il re di Assiria e tutta la sua gloria. Strariperà sopra tutti i suoi canali ed inonderà tutte le sue sponde. Inonderà la Giudea, la sommergerà travalicandola fino a raggiungere il collo, e le sue ali saranno spiegate su tutta l'ampiezza del tuo paese, o Emanuele. Sappiatelo, o popoli, sarete schiacciati. Ascoltate, regioni tutte lontane della terra, cingete le armi, sarete schiacciati. Fate un progetto, sarà sventato. Prendete una risoluzione, non avrà effetto, poiché Dio è con noi. Poiché così mi disse il Signore, quando mi prese per mano e mi avvertì di non andare per la via di questo popolo. Non chiamate alleanza tutto ciò che questo popolo chiama alleanza. Non temete ciò che esso teme e non vi spaventate. Il Signore degli eserciti, Lui tenete per santo. Egli sia l'oggetto del vostro timore, Egli l'oggetto del vostro spavento. Egli sarà un santuario, una pietra d'intoppo ed un ostacolo d'inciampo per le due case di Israele, un laccio ed un trabocchetto per gli abitanti di Gerusalemme. Molti di essi vi inciamperanno, cadranno e si sfracelleranno, saranno presi e catturati. Rinchiudi la testimonianza, sigilla questa rivelazione tra i miei discepoli. Io pongo la mia fiducia nel Signore, che nasconde la sua faccia alla casa di Giacobbe, e spero in Lui. Ecco, io ed i figli che il Signore mi ha dato siamo segni e presagi in Israele da parte del Signore degli eserciti che dimora sul monte Sion. Se vi si dice: consultate i negromanti e gli indovini che bisbigliano e mormorano, certo il popolo non deve forse consultare il suo Dio e i morti per i vivi. Alla rivelazione, alla testimonianza, così si parlerà, se no, non vi sarà aurora. Egli si aggirerà oppresso ed affamato, e quando sarà affamato si irriterà, e maledirà il suo re ed il suo Dio. Si volgerà verso l'alto, poi riguarderà la terra, ed ecco angustia e tenebre e notte desolante. Ma la caligine sarà dissipata, poiché non vi sarà caligine dove c'era angoscia. In un primo tempo egli umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma nell'avvenire renderà gloriosa la via del mare al di là del Giordano, il distretto delle nazioni.